Radio 24 Reportage. Rosso, arancione, giallo. I colori che cambiano come si viaggia nelle città italiane. Di Anna Marino. Regioni gialle, arancioni, rosse. Sono i colori dell'emergenza a scandire i movimenti nelle città italiane, dove le scuole sono chiuse, gli spostamenti sono limitati, torna ad alleggerirsi il carico anche sui mezzi pubblici, la vera nota dolente di queste settimane. Dove si continua a muoversi, restano gli affollamenti. In questa prima settimana delle nuove regole vi abbiamo portato nelle città italiane, grazie alle colleghe e ai colleghi di Radio 24, per capire come si vive, come ci si muove, e abbiamo cominciato dai trasporti pubblici di Milano, diventata zona rossa come la Lombardia. Bollini riattaccati su autobus e metro, tornelli e contapersone ritarati, avvisi per passeggeri aggiornati e flotte rinforzate. Anche con l'aiuto di società private, la segnaletica nelle stazioni e nelle pensiline degli autobus non è stata mai tolta in Lombardia. A Milano siamo arrivati in una metro con posti alternati a Cadorna, una delle 113 stazioni sotterranee di Milano, snodo di pendolari e cambi di linea metro. E alla prova dei fatti l'impatto è evidente. Certo, è ridotta la capienza massima di treni e mezzi pubblici del 50% contro l'80% di prima, ma i numeri dei passeggeri erano già più bassi tra smart work e didattica a distanza, e così si permette a chi ha necessità per lavoro di muoversi. Io vengo da Seveso, da lunedì a venerdì, è un'ora, sempre meglio che venire con la macchina comunque. Zona a bande nere, devo dire che la metropolitana prendendola a quest'ora non è, quindi mi va. Da casa ci metto 20 minuti, ma sono venuta in macchina io. Io prima avevo l'abbonamento del treno, a lavoro qui a Cadorna tra l'altro, qui alla procura dei minori. Non possiamo mettere i nostri programmi da remoto. Sono un operatore sociosanitario. Devo vedere l'orario di partenza di San Donato, poi sarà circa una ora più o meno. Pazienza, ci arrangiamo. Vado al lavoro, al Metropoli di Quarto Giaro. Da casa io abito a Sesto, prendo la metro, arrivo a Cadorna prendo il treno, tre fermate, la commessa. Devo andare a aprire il negozio, insomma. Soprattutto sulle vie un po' troppo di scorrimento, fare le ciclabili è un po' particolare. Però bisogna adeguare anche le strade, che sono piene di buche. Io ho visto anche la chiusura totale di marzo, quella è stata più dura sicuramente. Adesso siamo più preparati, dovremmo uscirne meglio. Vado al lavoro sempre in bici e in treno, sì, fin quando loro mi lasciano andare. Età 8-7. Mi porta a scuola tutti i giorni? Sì, tutti i giorni, sì, tutti i giorni. Questo è anche il momento e l'occasione per un rilancio della mobilità del futuro, come ci spiega l'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Pietro Granelli, coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI. Come comuni stiamo tutti dicendo che bisogna puntare di più sul trasporto pubblico e permettere molta mobilità sostenibile, e quindi usare di più la micromobilità come la bicicletta, lo scooter elettrico. Aumentare l'offerta proprio adesso investendo, sì, ma anche diversificare la mobilità sostenibile. Su questo puntano Milano e la Lombardia, anche con incentivi su elettrico a due ruote, monopattino, bici, con quasi 50 km di piste ciclabili a Milano e con un raddoppio dei ciclisti, ma a sorpresa anche tanti a piedi. Qui in Duomo sto andando a piedi. Le librerie sono aperte. Sì, sono aperte, ma c'è poca gente. Speriamo che la gente si invoglia a leggere, meno viene qualcuno a comprare. 70 miliardi di euro, questa cifra è l'investimento in Europa per l'auto elettrica. Se vogliamo arrivare al 2035 al 100% di auto vendute a zero emissioni, dobbiamo perciò avere target annuali e bisogna partire da subito, perché l'Italia è in ritardo nell'elettrificazione dei trasporti, come si è affermato nella quarta conferenza nazionale della mobilità elettrica tenutasi questa settimana. E sul fronte millennials tra i 24 e i 39 anni, che saranno i passeggeri e gli acquirenti di automobili del futuro, secondo un'indagine di EY Mobility Consumer Index 2020, è ancora contenuta la quota di quelli che acquisteranno un'auto elettrica, il 6%, ma l'utilizzo dei trasporti pubblici è diminuito tra loro del 70%, e il mercato dell'auto elettrica resta comunque strategico. Per questo anche il trasporto pubblico dovrà cambiare grazie alle tecnologie, come spiega Andrea Gibelli, presidente di Astra, associazione delle aziende pubbliche del trasporto locale. Il trasporto pubblico locale ha posto fin da subito, attraverso la sua associazione Astra, la necessità di riorganizzare i tempi della città. Ovviamente la diminuzione della capienza dei mezzi obbliga una rimodulazione della domanda. In parte è stato fatto, bisogna immaginare una strutturazione che porti ad abituarci a fare tante cose in maniera diversa. soprattutto, per essere concreti, non muoversi tutti negli stessi orari, e questo dipende da un nuovo modo di intendere sia la scuola che il mondo del lavoro, che noi ovviamente serviamo. C'è stato anche un impatto ovviamente dello smart working, della didattica a distanza, una diversificazione che fino adesso ha portato a traffico diciamo sempre più limitato e ora limitato anche per legge, ma per quanto riguarda appunto fondi, investimenti, per quando la situazione tornerà ad elastico, se non come prima dal 100% all'80%, che cosa si deve fare e che fondi sono necessari e quanti sono stati utilizzati fino adesso? Raggiungere l'equilibrio di bilancio per le aziende, che è poco noto, ma hanno continuato a muovere i propri mezzi indipendentemente dalle necessità dei trasportati, perché essendo inquadrati nel trasporto essenziale come servizio, questo ha degli obblighi che vanno al di là delle mere diciamo necessità, chiamiamole, di mercato. Oggi la cosa più importante sulla quale si sta investendo con delle importanti sperimentazioni all'interno delle aziende è il tracciamento dei flussi attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e sarà la sfida vera per evitare situazioni di crisi che devono essere in qualche modo definite dalle informazioni che ci sono mancate in passato, ma che oggi dobbiamo essere assolutamente nelle condizioni di avere, e la tecnologia in questo aiuta. Quindi una dimensione digitale sostenibile anche per i trasporti, che aiuta, come dire, a prevedere il traffico e a modularlo a seconda delle necessità, e rende più facile avere una previsione anche di bilanci, di spese, eccetera. Quanti fondi avete bisogno per realizzare questo cambiamento e ovviamente che tempistiche? Per chiudere il 2020 in termini di emergenze dal governo abbiamo bisogno ancora 1 miliardo di euro per chiudere i bilanci. Per quanto riguarda gli investimenti in nuove tecnologie, ci sono dei capitoli importanti in alcuni provvedimenti, sia nazionali sia a livello europeo, dentro la quale le aziende stanno valutando quali sono le migliori tecnologie che consentono, attraverso l'utilizzo di piattaforme che si stanno via via offrendo, sia per il monitoraggio dei flussi sia per fare servizi più mirati alle esigenze degli utenti. Questo salto, che è un salto epocale, tenga conto che i tempi del trasporto pubblico locale a livello mondiale sono tempi lunghi, a volte c'è bisogno di diversi anni. Ad esempio, il semplice fatto di acquistare un treno nuovo ci vogliono più di 20 mesi, per acquistare autobus siamo sempre nell'ordine di mesi. Quando qualcuno dice aumentiamo l'offerta dall'oggi al domani, anche solo per quanto riguarda il rapporto con le gare e i fornitori, non è possibile. È una grande sfida che va vista a medio termine. Il Covid ha accelerato questa necessità. Oggi sembra fantascienza, però ci stiamo lavorando da tempo. E ci spostiamo in Calabria, altra zona rossa a sud. Qui la paura del contagio ha fatto diminuire drasticamente l'utilizzo dei mezzi pubblici. I giovani soprattutto non si fidano, si usano moto, biciclette elettriche e monopattino. A Cosenza il trasporto pubblico è appannaggio dell'azienda municipalizzata Amaco, che ha una flotta di 50 mezzi, quasi tutti a metano. Paolo Posteraro, l'amministratore unico, giudica il numero sufficiente, ma auspica una modernizzazione dei veicoli, come spiega al microfono di Francesco Straticò. Per il servizio ordinario ce ne servono 30. Il nostro vero problema è che avremo bisogno di autobus più nuovi. Ne abbiamo appena comprati 5 col cofinanziamento della regione, 2 li abbiamo comprati con risorse nostre, avremo bisogno di sostituirne altri 5 e speriamo che arrivi qualche finanziamento che ci aiuti a farlo. Gli autobus vengono sanificati ogni giorno. A bordo di ogni autobus ci sono le indicazioni per l'utenza su cosa fare e cosa non fare. Dopodiché purtroppo noi non abbiamo altri poteri, perché non possiamo far scendere le persone dagli autobus, non possiamo inibire l'accesso all'autobus a chi ha un titolo di viaggio, un po' perché c'è un grande garbuglio dal punto di vista giuridico e un po' perché ci manca il personale per farlo. E adesso naturalmente si è azzerata l'utenza delle scuole, che i nostri utenti sono per lo più studenti, anziani e persone che non dispongono di automobile, e quindi naturalmente abbiamo rinunciato a una fetta importante dell'utenza. Dal punto di vista economico questo per noi è un disastro. E la situazione a Roma, in una Lazio che resta zona gialla ma che è circondata, Toscana, Abruzzo e Umbria sono zone arancioni, viene inquadrata da Enrico Stefano, presidente della Commissione dei Trasporti del Campidoglio, al microfono di Alessandra Schepisi. Tendenzialmente questa misura sta dando dei buoni risultati, ovvero quelle linee, quelle più centrali che di solito sono più utilizzate, comunque riescono, si riesce a mantenere un distanziamento, una situazione accettabile, insomma il servizio è abbastanza regolare, diciamo che pur nella difficoltà del momento e di un minimo di imprevedibilità che ahimè c'è, diciamo stiamo tenendo abbastanza bene. Torniamo al nord con Torino in Piemonte, altra zona rossa, dove investimenti su piste ciclabili e sul futuro della mobilità fanno i conti con il nuovo picco di criticità, come spiega Maria La Pietra, assessora alla mobilità della città di Torino, al microfono di Filomena Greco. Siamo riusciti a fare in pochissimi mesi una decina di chilometri in più, con l'ambizione di arrivare a praticamente fare quasi 100 chilometri in più di piste ciclabili con i milioni che ci arriveranno dal Ministero. E questo è stato, diciamo, un'accelerata enorme. Quindi tutto quello che volevamo realizzare con il nostro biciplan non è più un libro dei sogni, ma potrà essere realizzato. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.